qualcuno su questo canale? Proprio nessuno. Proprio nessuno, nessuno. Perché tu nessuno sì? Salve Giulio, mi sono acceso poco fa, però qua in ricezione tanto non entra nessuno e sono un po' indaffarato. Mi la sabbia ai gatti, potevo fare qualcosa da mangiare, poi devo fare la barba, preparare la differenziata, mamma mia, oggi fine serata, cioè oggi fine serata un po' di cose da fare, anche perché ho poltrito tutto il giorno e quindi mi tocca fare tutto a fine serata. Ehi, vabbè, piano piano Marco, piano piano te ne fai le cose, non è che devi correre, no. Che ti sgrida, che cosa te ne frega, se te ne fai un po' ti riposi e poi continui quando hai voglia. Ehi, mi stavo prestando a cambiare la sabbia dei gatti, questi mangiano e hai già capito. Bello che lasciano anche a metà del mangime, che in estate si asciuga prima e diventa poi secco e non ne vogliono poi, è abituati male questi gatti, ci vorrebbe una passata di guerra anche per loro. Insomma, la voce un po' d'acqua, aspetta. Sì, fai, fai. Ieri ho fatto una spazzolata veloce, mi pare c'era gente sul 23. Sì, sul 23. Poi poi nient'altro. Non sto entrando costantemente, già lo sai, no? Ieri siamo usciti, oggi invece tutto il giorno a casa. Poi ho dormito anche male. Sta diventando un problema questo del mio... di questo sono mancato per me. Vabbè, da pazienza, vediamoci quello che ci arriva. Ovviamente la vita bisogna viverla giorno per giorno intanto, per cui è utile fare programmi perché poi magari uno non può mantenere, invece giorno per giorno si adegua a quello che vi offre la giornata e il momento di libertà e soprattutto di a disposizione per fare certe cose. Io procedo, dai. Poi se entra qualcuno vedo se posso fare qualche passaggio, dai. Ok Giulio, dai, sentiamo. Buona serata, buon tutto. Ok, ciao Marco. Alle prossime, io ho appena acceso adesso, non è che ero tutta la sera attaccato al computer, tanto sapevo che non c'era nessuna frequenza, per cui ho fatto quello che salgo verso le 7, cioè adesso sono le 7:20 tra l'altro, e beh, vediamo un po' se c'è qualcuno. Va bene, dai, a dopo eventualmente se coincide. Ciao Marco, alle prossime. Già c'è qualcuno, ho sentito una portantina muta. Avanti la portante, chi è che vuole entrare? C'era quel ragazzo dalle tue parti, quello che mette sempre la portante e fischia. Non fa altro che fischiare continuamente ma non parla mai. Dalle mie parti, e chi c'è dalle mie parti? Da qua non modula nessuno. No, deve essere un ragazzo che è il baracchino. Un portatile dovrebbe essere lui che ha un portatile, però non ha antenna, capito? E dunque con l'antenna sua nel portatile stesso non puoi sentire solo tu. Però se che fa, magari lo so che sono io dal quadrato lì, perché mi ricordo che tempo fa l'avevano individuato che era lì in quella zona, poi non lo so, suppongo, questa è una mia idea adesso. Poi se non è così pazienza, non è un problema. Però dico io, se tu fischi, se arriva il fischio potrebbe arrivare anche la conversazione, no? Invece no, non parla mai. Metti la portante, forse le piace solo ascoltare, basta. Se hai gente che non conosce magari si sente inibito. Va bene, dai, mi levo di mezzo queste cose da fare, sennò... si fanno le 11 mezzanotte e non ho combinato niente. Ciao Giulio, ciao ascoltoni, alla prossima. Comunque qua rimane acceso. ogni modo. Ok, ciao, ciao Marco, ciao. E mi adesso ho attaccato questo Cobra per farlo modulare un pochino, perché non ho, ero parecchi mesi senza accenderlo. Va bene, non funziona sempre la batteria, non so a che livello di carica è, però già va bene, visto che mi hai risposto, che mi stai rispondendo e non mi hai detto niente, vuol dire che già sta uscendo bene. Sì, niente da segnalare. Ok, d'accordo. Alle prossime. Ciao Marco. Aspetta che adesso te ne racconto una, no? Con questa tecnologia. Noi abbiamo un'antenna secondaria in terrazzino, un'antenna TV, no? VHF più UHF, è la classica antenna che uno metterebbe sul tetto. Niente roba ad alto guadagno, una normale antenna, no? Io per aggiornare i canali TV, siccome allora questa antenna arriva prima in camera di mamma, no? Poi viene sdoppiato il cavo mediante partitore, no? Quindi con un pezzettino da un metro si collega alla sua TV. E poi con un cavo più lungo, sempre all'uscita del partitore, arriva in camera, no? Solo che io in camera ho abbastanza poco segnale, cioè magari il canale li vede, ma ogni tanto salta, ogni tanto squadretta, me ne sono accorto che la qualità e la potenza del segnale passano. Vabbè, comunque dovevo solo aggiornare i canali, no? Ho detto, meglio portare il televisore in camera di mamma, c'è più segnale e aggiorno da lì, no? Lo porto, faccio tutto, lo riporto in camera. Anzi no, l'ho provato lì stesso, no? In camera di mamma. E praticamente non vedeva Rai 1, Rai 2 e Rai 3, non esistevano secondo. Eppure lì il segnale più forte. Ma non è possibile, ho cercato dappertutto. Tutti i canali che aveva memorizzato, ho detto non è possibile, non c'era, Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ma poi pare strano a me. Allora ho rimemorizzato i canali dalla camera mia, nonostante il segnale sia più basso, e ha riconosciuto Rai 1, Rai 2, Rai 3. Come me lo spieghi questo mistero? Molto probabilmente hai un'antenna in quella camera lì, o perlomeno non so se è la stessa antenna, sia della camera tua che della camera di tua madre. Il discorso è stato in due termini, in due fasi. Uno, magari col fatto che ci sia cavo e che ci sia dispersione del segnale non arriva in quell'altra camera. Due, può essere che hai montato un'antenna che non abbraccia quella frequenza della RAI. Che buonasera. Guarda, non è detto che le antenne sono tutte dello stesso, perché hanno tutte la stessa frequenza, la stessa capacità di ricevere. Per cui, non lo so, bisogna controllare per bene. Possono essere svariati i motivi, fra questi anche il cavo, ad esempio il cavo dovresti utilizzare il cavo a bassa perdita, il partitore deve considerare se ha la doppia uscita, se ne ha solo una, tante cose sono. Marco, bisogna controllare l'impianto completamente per vedere cosa succede. Io qua l'impianto ce l'ho, guarda, tu l'ho sempre detto, io ho 5 televisori qui installati a casa, e non ho fatto un impianto nemmeno molto particolare, l'ho fatto tutto in caduta, dall'antenna alla presa, dalla presa all'altra presa, dall'altra presa all'altra presa, l'ultima presa naturalmente c'è la presa di chiusura, perché ho utilizzato prese passanti da presa a presa, non ho utilizzato, non c'era bisogno di fare un grande impianto tipo che so io, condominiale eccetera, no, assolutamente. E devo dirti che io dappertutto vedo benissimo, ma veramente bene, tutti i canali, tutti indistintamente. Per cui vedi bene che c'è da considerare la qualità del lavoro che è stato fatto, dell'impianto. KK, chi ha parlato del partitore? Avanti. Niente, non vuole entrare, va bene, buonasera comunque. Ah, e poi, Giulio, sempre con la medesima antenna, no? Mamma, col suo televisore, Rai 1, Rai 2, Rai 3 li vede, quindi come mai non mi trova proprio la frequenza, il mux, adesso non scendo dal tecnico e non ne so manco niente. Non me li trovo, in camera me li ha trovati. E allora d'ora in poi se devo aggiornare la lista canale le faccio dalla camera direttamente. Non so a trasportare il televisore. E vabbè, insomma mi devo dannare o col televisore o con lo smartphone o col computer. Adesso, mamma mia, si sono messi in testa qua di pigliare un computer nuovo, forse, con Windows 10, quindi devo reimparare tutto da capo perché io sono fermo a XP, cioè quei due residuati belli ci sono ancora con XP, funzionano, però... Mamma mia, mi sono saltato troppi sistemi operativi, Giulio. Sono ben dietro. Qui c'è queste finestrelle colorate, XP, sembra una specie di... non so come definirli. Vabbè, ma comunque è tutto in cantiere ancora. Comunque eterni quei computer non sono, quindi quel computer portatile dal 2005, un Acer. Dal 2005 al 2019 funziona sempre, hard disk, lo sto pennacciando hard disk, c'ha 14 anni, è ancora indenne, incredibile. Ehi, vabbè, compra Marco, compra, cioè, è bello comprare sempre, quando ci sono le possibilità per farlo va sempre bene, acquistare cosa di moderna, di costruzione recente soprattutto è sempre bello. Sì, però non ho fatto l'antenna, ripeto, senza utilizzare partitori e balle varie, che i partitori molte volte ti mangiano tanto di quel segnale che tu non hai idea. Io ho utilizzato le prese passanti, l'ultima che è collegata, quella lì c'è la resistenza, cioè si chiama presa di chiusura. Per cui, ripeto, vedi in una maniera impeccabile tutto il canale, veramente, veramente bene, bene, bene, bene. Ecco cosa ti volevo dire. Perciò inutile stare partitori qua, miscelatori là, un sacco di pasticci. Ma non si vibra nulla, non hai capito che non c'è più necessità di tutte queste cose, col segnale che arriva ormai. Tu pensa che io appoggio il cavo, prima di inserirlo nella presa, là si vede la televisione, per dire che quanto segnale arriva, è una cosa meravigliosa, veramente. Va bene, dai. Riprova, sarai più fortunato, Marco. Ehi, qui stavo pensando, sì, questa antenna è sul terrazzino, no? Praticamente Monteoro è di fronte, ci abbiamo di fronte, per modo di dire, c'è portata ottica, abbiamo solo come ostacolo il grattacielo, di Piazza Castello, quello alto. Mi pare che non ci siano altri ostacoli. O il grattacieli Piazza Castello, insomma. Però è lì, è Monteoro. Poi vabbè, per il tetto va cambiata, bisogna cambiare il cavo, bisogna fare un po' di... bisogna ripristinare l'antenna sul tetto, la cosa migliore. Il televisore vecchio, ma quello che ho in camera è un Grundig LCD HD Ready del comunque LCD, fate il conto, HD Ready era ancora, figurati, c'era un bel po' di annetti, un bel po', vabbè, quando cambieranno quel il coso, ma quando entrerà in gioco il DVB-T2 cambieranno il codec di trasmissione, quindi bisogna aggiungere l'ennesimo come si chiama? Sintonizzatore digitale terrestre, il decoder, uno uno dice, ma tanto vale cambiare il televisore, no, facile no, e lì di là. Oggi si trovano televisori anche a 200 euro, che si vedono molto ma molto bene, è anche abbastanza grande come grandezza di televisore, per cui addirittura anche a 28 pollici con 200 euro lo trovi tranquillamente, forse anche a 32, per cui non è quello il problema. Oggi non è, c'è solo l'imbarazzo della scelta, oggi uno può scegliere qualsiasi televisore che si vedono tutti benissimo, guarda, veramente, con questo sistema soprattutto del digitale si vedono tutti bene, indipendentemente dalla marca eccetera, perché poi tra l'altro queste case che costruiscono televisori, al limite il mondo è sempre quello, e poi magari si fronte al muro ci mettono una marca diversa dall'altro per distinguere questo è il mio, questo è il tuo, però in realtà poi alla fine all'interno è né più né meno la stessa cosa, nello stesso circuito, lo stesso mondo, per cui va bene così. Va bene, io già ce li ho tutti di quelli moderni, diciamo, dai, quelli piatti, non con i televisori di quelli a tubo cartone, quelli una volta, no, quelli ne ho uno, ma quello lì è che funziona tra l'altro molto bene, ma quello non è installato, quello ce l'ho conservato e basta, non è installato, però ne ho installato 5, tu pensa che parto io dalla Massarda, da una notte, Salone, Tavernetta, tanto per dire una, no? Sicché ti puoi immaginare, ci sono anche parecchi metri di cavo, per cui c'è anche un po' di dispersione, e nonostante tutto, la Tavernetta, che è il punto più lontano dall'antenna, si vede benissimo, tutto bello, chiaro, chiaro, chiaro, è una meraviglia, guarda. Ahia. No, poi come ho detto l'altra volta, il televisore noi non stiamo a seguire le mode, il televisore lo dobbiamo rompere per cambiarlo, a meno che non diventi talmente obsoleto da non poter essere utilizzato normalmente. Il mio è un 35 pollici, non so se, no, 32 scusa, 32, perché mamma c'ha il 40 dalla Samsung, no, 40 o 42, pare 40, e comunque è molto più brillante l'immagine, è più contrastata, i colori sono migliori, non sono meno, se esista più Grundig ancora come marca a sé stante oppure se è stata assorbita, fagocitata da qualche altra azienda cinese ormai, eh? Peccato per la Mivar, però vabbè, cosa vuoi competere con questi asiatici, LG, Samsung, vabbè, dai Giulio, dai che qua mi stanno sollecitando un po', vado, lascio acceso qua, comunque vado, devo fare sta roba, ciao Giulio, ci sentiamo, ciao, ok, ciao Marco, alle prossime se coincide, dai, ciao.